sulle mani, siamo su, sulle mani, che stavolta non dobbiamo zapparlo fino a domani. E ritorno, doppia puzzata crew, di giorno, di notte, se ci sei grida forte, più forte, tirate sulle mani, siamo su, sulle mani, che stavolta non dobbiamo zapparlo fino a domani. Ok, allora questo è il piano, sì. Bombe al tritolo da farti saltare in mano, microfono tra i denti e diventiamo più potenti, se caliamo nuovamente sopra sti quattro dementi e già lo senti. Il confronto non sussiste, doppia buzzata sempre in petto, il resto non esiste. Maso, è colui che t'ha rubato il pranzo, sì. E questo nome dà fastidio più di Maurizio Costanzo. Un ritorno firmato doppia buzzata, mentre sputo questa roba ti descrivo il mio pianeta. Tutti quanti capiranno che è il momento di cambiare, di mettere a tacere questa falsa morale. Regolare, un anno è già passato e tutto ancora uguale. Blocco mentale che porta a voi non era male. Quando stavo nell'anonimato, chi mi dava del fallito, adesso prendi bezza e vita, sei mammaso, santo e benedito. Come Vito Corleone mi spari, ma non c'è soluzione, sempre pronta alla resurrezione. Come speri di scalfire sto granitico trio, bella zio, c'è chi mi ha detto ciao, chi è addio. Ma non mi son perso d'animo, forte di un cuore impavido, continuo mavido nel sudore che butta live. E mo che tiri sulle braccia e ascolti sta traccia, ai lati della faccia il mio sorriso ti minaccia. L'hai visto tempo fa, non credevi che sarei tornato qua, per distruggere la tua mentalità, pezzi d'alta qualità. La doppia WZ si muoverà con spontaneità, da fastidio a chi lo sa che non si distruggerà, nonostante la precarietà che alleggia assiduamente in questa nostra società. Resteremo sempre qua e assisteremo al fallimento di questa grande città, con la superiorità di chi sovranerà su tutta questa merda, e qui resterà per colpirci, insultarci, ma poi contarci che resteremo qui mentre continui a giudicarci. E ritorno, doppia WZ crew, di giorno, di notte, se ci sei grida forte, più forte, tirate sulle mani, cazzo su, sulle mani, che stavolta non sbottiamo dal palco fino a domani. E ritorno, doppia WZ crew, di giorno, di notte, se ci sei grida forte, più forte, tirate sulle mani, cazzo su, sulle mani, che stavolta non sbottiamo dal palco fino a domani. 5, 4, 3, 2, MC1, doppia WZ crew manda ancora a fare in culo chi come te ci ha odiato, chi ci ha rinnegato, chi costantemente ci ha invidiato, ora sarà ripagato del disprezzo che ha dato. Sono come un condannato che perennemente giudicato, viene sempre giustiziato dal malato col cervello degradato. E qui sono tornato, sono tornato. Come? Cosa? Cosa? Siamo tornati più cresciuti, incazzati, tirati dalla puzza che si sente in questi casi. Prendi quindi tutta quelle mani su che è già tardi. Doppia buzzetta non puoi competere, ricordi, un'imperfezione della società perfetta. Questo posto tremerà dalla base alla verde. Sputiamo ancora merda perché la merda c'è. Stiamo sul cazzo a tutti e siamo sempre noi tre. Più J di One di JJ, noi cintura nera ma senza sensei. Hey, datemi sto battito di mani, ok. Siamo potenti, per certi versi pure affascinanti. Senti, se ti piace poi mi giudichi, giudichi. Non me ne foto niente di chi, di chi. Parla solo per aprire bocca qui. Doppia H, doppia WZ, raddoppia. E ritorno, doppia WZ crew, di giorno, di notte, se ci sei grida forte, più forte, tirate sulle mani, cazzo su, sulle mani, che stavolta non sbottiamo dal palco fino a domani. E ritorno, doppia WZ crew, di giorno, di notte, se ci sei grida forte, più forte, tirate sulle mani, cazzo su, sulle mani, che stavolta non sbottiamo dal palco fino a domani. E ritorno, doppia WZ crew, di giorno, di notte, se ci sei grida forte, più forte, tirate sulle mani, cazzo su, sulle mani, che stavolta non sbottiamo dal palco fino a domani. E ritorno, doppia WZ crew, di giorno, di notte, se ci sei grida forte, più forte, tirate sulle mani, cazzo su, sulle mani, che stavolta non sbottiamo dal palco fino a domani.